Sium vuol dire, signori, col vostro permesso, abbiamo l'onore di condividere con voi questa Simcha, che è considerata una mitzvah, un pasto di mitzvah, quando si conclude una masechet, un trattato intero. Prima lo dobbiamo concludere però. Allora, la prima cosa che faremo è lo concluderemo. Dopodiché faremo una breve tefilà, che si usa fare alla conclusione di una masechet. Dopodiché sentiremo due parole legate a questo masechet, a questo trattato, da Fabio. Seguirò io con altre due parole, poi proseguirà il pasto festivo. L'ultima parte del trattato, di che trattato si tratta? Si tratta del masechet Tamid. Tamid è una parola che si sente spesso perché vuol dire quotidiano, è un riferimento al Korban Tamid, al sacrificio quotidiano che si portava nel Bet HaMikdash. Korban Tamid c'è il Boker, quello della mattina, e Korban Tamid c'è il Ben Arbaim, è quello della sera, del pomeriggio. E il trattato di Tamid in realtà non parla solamente di questo Korban, ma parla di tutto lo svolgimento della giornata tipo all'interno del Bet HaMikdash. Dalla prima cosa che si faceva la mattina, anzi ancora prima dell'alba, fino alla conclusione della Avodah e il servizio, il culto, la tefilà, tutto ciò che veniva effettuato all'interno del Bet HaMikdash in una giornata tipo. Concludendo la Masechet, tra l'altro questa Masechet ha 7 capitoli, di cui solamente... di Gemara abbiamo i primi 4 capitoli, hanno anche la Gemara, ma gli ultimi 3 capitoli hanno solamente la Mishnah. E concludendo l'ultima Mishnah del 7° capitolo, la Mishnah dice così: Hashir shehayu haleviim omrim b'amikdash, durante le korbanot i Leviim cantavano e ogni giorno aveva un canto. Allora il canto era un salmo ed era accompagnato anche da un accompagnamento musicale particolare. Ma il canto stesso, ovvero la parte parlata, qual era? La Mishnah insegna che il canto che i Leviim dicevano nel Bet HaMikdash era in base al giorno della settimana. Bayom Arishon, quando era Yom Rishon, che vuol dire Yom Rishon? Domenica, molto bene. Allora si diceva, Hayu Omrim, la Hashem Haaretz Umeloa, Tevel V'Yosheve Ba. Si recitava il canto, il Salmo numero 24, che è quello che parla di che cosa? Che HaKadosh Baruch Hu è il vero padrone e capo del mondo, di tutta la realtà, dell'universo, perché domenica Yom Rishon fu il primo giorno della creazione del mondo, il giorno in cui, poi approfondiremo più tardi. Secondo giorno, cioè lunedì, Basheini Hayu Omerim, il Salmo 48, Gadol Hashem Umehulal Meod Beir Elokeinu Har Kocho. Si fa riferimento in particolare a Gerusalemme e al Bet HaMikdash, cioè un posto che HaKadosh Baruch Hu ha scelto nel suo mondo. E poi Bashelishi Hayu Omerim, il giorno di martedì si diceva nel canto, quale? 81. Bravissimo, 81. Elohim Nitzav Ba'adat Kel Bekerev Elohim Yishpot. Si fa riferimento al giudizio e ai giudici che HaKadosh Baruch Hu dà, non solamente la creazione, la scelta del luogo, ma anche dà in mano a noi la possibilità di gestire la vita secondo la Torah e secondo il giudizio della Torah. E poi il giorno Revi, Barevi, Ayuomri, mercoledì, Kel Nekamot Hashem, Kel Nekamot Ophia. Il giorno mercoledì è il giorno in cui sono stati creati gli astri, il sole, la luna, e c'è anche chi purtroppo fa Avodah Zarah e serve il sole, la luna e altre cose che non vanno servite o fatte come culto, Allora si riferisce a questo quando dice che Akadosh Baruch Hu punirà coloro che non lo riconoscono e servono altri dei. Bachamishi, quando arriviamo al Chamishi, cioè al giorno di giovedì, allora si dice il versetto, il Salmo 82, molto bene. No, 82 è quello precedente. 81. Arninu l'Elohim Useinu Ariu l'Elohei Yaakov. In questo salmo si parla della forza, della potenza di Akadosh Baruch Hu, in quanto questo è stato il giorno in cui sono stati creati tutte le varie specie di animali e di che sono un'infinità di specie e ogni specie ha le sue particolarità, la sua natura, e questo dimostra la grandezza, la potenza di Akadosh Baruch Hu. E noi Arninu, noi cantiamo, lodiamo ad Akadosh Baruch Hu. Quando vediamo la natura siamo in grado di ringraziare e di lodare chi ha creato. Bashishi, il giorno venerdì, cioè il sesto giorno, a Yomerim si diceva il Salmo 93, Hashem Malach Geyut Lavesh, Lavesh Vegomer, eccetera. Si parla del regno di Akadosh Baruch Hu, e cioè che Akadosh Baruch Hu si veste con una veste di re, e noi che lo riconosciamo come re, cioè perché proprio venerdì è il giorno in cui è stato creato Adam e Chava, cioè l'umanità è stata creata, e quindi hanno potuto riconoscere Akadosh Baruch Hu come re dell'universo, re dell'esistenza. Che cosa che gli animali non hanno ancora fatto, solo l'uomo è arrivato a questa conoscenza. E allora, in un certo senso, Hashem è come se diventasse re quando viene incoronato. Un re non è un re se non c'è un popolo, c'è scritto, no? Quindi, allora in quel giorno si dice Hashem Malach, e Be Shabbat, il giorno dello Shabbat, a Yom Merim, si diceva Mizmor Shir Li Yom HaShabbat. Il canto 92, che è il canto del giorno dello Shabbat. La Mishnah aggiunge Mizmor Shir Leatid Lavo Le Yom Shekulo Shabbat Ubinucha Le Chayei Olamim. Questo Shabbat non è riferito solamente allo Shabbat della creazione, cioè quello originale, ma c'è anche un futuro Shabbat Leatid Lavo, un giorno che è considerato tutto Shabbat, che è la vita del mondo a venire, l'epoca, l'era messianica, la venuta del Mashiach, che si chiama un giorno di Shabbat. A questo punto si è conclusa la Masechet, Adran Alach Bisman Shekoen Gadol Uslika la Masechet Tamid, e Adran Alach Masechet Tamid Veadrach Alan Masechet Tamid Vedatach Alan La Datan Alach Masechet Tamid Vedatach Alan Lo Nitan Sheminach Masechet Tamid Velo Titan Sheminan La Balmaden Vela Balmad Yate. יהי רצון מפניך אדוננו שתהא תורתך אמונתנו בעולם הזה ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, בב מרי בר פפא, רופרם בר פפא, רכיש בר פפא, סולחה בר פפא, אדר פפא, דוד דרו בר פפא. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתנו לסיים מסכת תמיד. כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרינו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרינו וזרע זרינו עד עולם ותתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים במינה בשמאלה עושר וכבוד אדוני עוז עמו ייתן אדוני יברך תמו ושלום יתגדל ויתקדש שמי רבה אמן. בעלמא דברי חילודי אבנים חוכו דבי עצמא חור כנאי וגרי משיחי. אמן. כל מיוחד מחיית כל בית ישראל בגלה ובזמן קריבים אמן. אמן. יש שמי רבה ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת ורעת שמי קודשה בריחו. אמן. אלא מקור ברכתה ושל הדב ושפר הדב נחמתה נמינם בעלמא ואמרו אמן. אמן. ישראל ורבנם ולתמידיון וכל תמידי תמידיון וכל מנעץ כמוראי תעדו יתרדן די בכל אתר ואתר ילעון ולכון של המרבה חינה וכיסה ורחמים חיים מלכים זרן לבחי פורקלה מקודם ועוד נשמעיה ואמרו אמן. אמן. ושל המרבה משומע וכם טובי עלינו וכרסה ואמרו אמן. אמן. ושלום ואמרו אמן ויעשה שלום עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. אמן. סברים על ענן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. אלורה, בכבוד. Adesso l'attenzione, per favore, vogliamo sentire due parole da parte di Fabio, che insieme abbiamo studiato questa Masechet. Allora, col permesso di Rav Shalom, di mio padre, del maschil Marco Della Riccia, intanto grazie per essere venuti tutti qua a concludere con me la Masechet. È un trattato importante, anche se è piccolino dal punto di vista di quanto è lungo il testo, del volume, ma è importante perché è un trattato, come dire, abbastanza curioso, perché sono tutte cose che in realtà noi non vediamo nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita ebraica, anche se molto di quello che facciamo oggi ci riporta, o meglio prende spunto da quello che succedeva nel Tempio. E il secondo motivo per cui mi sono molto emozionato a studiarlo è perché in qualche modo studiare quello che avveniva nel Beit HaMikdash ci fa avvicinare un po' di più all'era del Mashiach, e speriamo, se Dio vuole, che arrivi presto ai nostri giorni. Amen. E, come ha detto il Rav, in questo trattato viene raccontato, viene spiegato come funzionava il servizio all'interno del Tempio dal momento in cui i Kohanim si svegliavano dovevano iniziare il servizio. Le cose che vengono fatte sono molto tecniche, anche molto complesse e anche molto pratiche. Studiando questa Masechet uno si rende conto della praticità anche delle cose che succedono dentro un tempio, dove ovviamente c'è una parte di grande kedusha, ma anche di tante cose pratiche che vanno fatte. Ovviamente tutte le cose pratiche che si facevano hanno poi i loro risvolti spirituali. E il trattato inizia con i Levim, i Kohanim, che fanno la guardia al Tempio, e continua con il risveglio dei Kohanim, cosa succede tra la notte e il giorno, e come vengono assegnati i compiti durante la mattinata, quali Kohanim. Una cosa curiosa, per esempio, che io ho saputo, che ovviamente i Kohanim erano tantissimi e si serviva solamente una settimana l'anno, no? Uno pensa che tutti i Kohanim stanno là attaccati al Tempio, mentre invece una settimana l'anno, il resto dell'anno fanno i Kohanim da altre parti, diciamo, non dentro il Beit HaMikdash. Ovviamente si arriva al fulcro della Masechet, che è il Tamid, cioè il sacrificio che veniva fatto sull'altare, e vengono a spiegare tutte le cose che ci sono intorno: la menorah, il ketoret, la figura del Kohen Gadol. Viene spiegato un po' tutto quello che succede dentro. Io mi sono voluto soffermare in questi due minuti sulla Birkat Kohanim, che è una cosa che noi sentiamo spesso durante l'anno, durante i giorni di gioia e di festa. In questa Masechet la Birkat Kohanim viene citata due volte. Una prima volta viene citata nella prima Mishnah del capitolo 5, quando i Kohanim sono ancora in preparazione della loro Avodah, sono in questa stanza qua. Giusto, Rav? Sono in questa stanza qua e si stanno preparando alla Avodah e pregano, fanno tre preghiere. La terza di queste preghiere è la Birkat Kohanim, ma non è la Birkat Kohanim come noi la intendiamo, quella data ad Am Israel. È più una preghiera senza pronunciare il tetagramma, ed è all'interno delle tre preghiere che loro dicono per prepararsi alla Avodah della giornata. In realtà in Masechet Berachot Rashi e Tosfot discutono se la Birkat Kohanim che si fa in questa stanza è la vera Birkat Kohanim. Alla fine, diciamo, il trattato di Tamid ci svela che in realtà non è la reale Birkat Kohanim quella che si fa in questa stanza. Quando si fa la Birkat Kohanim allora? La Birkat Kohanim si fa dopo che il Kohen Gadol esce dal Kodesh, giusto? Esce dal Kodesh dopo che è stato fatto il Ketoret, e insieme agli altri Kohanim che hanno portato gli utensili per fare il Ketoret, si mettono su queste scale. Il Kohen Gadol sta sopra e poi sotto nei vari scalini ci sono gli altri Kohanim, che saranno 5 o 6 più o meno, 5 o 6 Kohanim che da qua fanno la Birkat Kohanim. E nella Masechet è spiegato nel settimo capitolo, nella Mishnah 1, nella prima Mishnah del settimo capitolo, scusate che la prendo. La seconda Mishnah del settimo capitolo è spiegato che i Kohanim benedivano la nazione alzando le mani all'altezza delle loro spalle, tranne il Kohen Gadol che invece l'alzava più in alto, giusto? Meno più in basso. Quindi Kohanim sopra le spalle e il Kohen Gadol sotto all'altezza delle spalle, e pronunciavano la Berakah come se fosse un'unica Berakah. Noi oggi in qualche modo la sentiamo divisa, no? Yevarecha Hashem v'yishmerecha, e poi si dice Amen. La seconda Berakah si dice Amen, la terza invece veniva pronunciata come se fosse una Berakah tutta ad un fiato, e non si diceva Amen. Dentro il Bet HaMikdash non si diceva Amen, ma si diceva alla fine della Berakah Baruch Shem Kevod Malkut Ol Olam Va'ed. Fuori dal Bet HaMikdash invece si rispondeva Amen. Un'altra cosa che veniva fatta dentro il Bet HaMikdash, quando si diceva la Berakah, la Birkat Kohanim, si pronunciava il tetagramma. Il nome di Kadosh Baruch Hu veniva pronunciato durante la Birkat Kohanim. Questo si diceva Baruch Shem. E proprio per questo si diceva Baruch Shem che vuol Malkut Ol Olam Va'ed. La Birkat Kohanim con il tetagramma dentro il Bet HaMikdash è stata detta da quando c'era il Mishkan. Sappiamo che la Birkat Kohanim viene dato ordine da Kadosh Baruch Hu a Moshe Rabbeinu di dire ad Aaron come doveva benedire il popolo di Israele. E la prima benedizione c'è quindi il primo di Nissan, quando c'è l'inaugurazione del Tempio. L'inaugurazione del Tempio è quel momento in cui Moshe in qualche modo capisce che Kadosh Baruch Hu ha non superato, ma diciamo in qualche modo ci dà la possibilità di fare tikkun su il peccato del vitello d'oro. E la Birkat Kohanim è quella Berakah che Kadosh Baruch Hu ordina ai sacerdoti di darci proprio a protezione, e simboleggia questo superamento del peccato del vitello d'oro. Moshe Rabbeinu proprio sente di essere vicino, che Kadosh Baruch Hu in qualche modo ha superato in qualche modo quel momento. Quindi da quel momento la Berakah viene data con il tetagramma dentro Bet HaMikdash fino a Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik era il Kohen Gadol dell'epoca del Secondo Tempio. Dopo Shimon HaTzadik non viene più data la Berakah dentro il Tempio con il tetagramma. Il Talmud nel trattato di Yomà fa un racconto affascinante in cui spiega l'ultima Berakah di Shimon HaTzadik con il tetagramma. Racconta che dopo Yom Kippur, nell'anno in cui Shimon HaTzadik è venuto a mancare, lui chiamò dopo Kippur il suo Cohen, diciamo che lo seguiva nella avodà del Tempio, e gli ha detto... Segan, no? L'assistente? Sì, il Segan. Questo è il mio ultimo anno come Cohen Gadol. E quando il Segan gli ha chiesto a Shimon HaTzadik, come fai a sapere che questo è il tuo ultimo anno come Cohen Gadol? Come fai a esserne sicuro? E lui ha risposto, Shimon HaTzadik ha risposto, tutti gli anni a Yom Kippur un anziano uomo vestito completamente di bianco mi aspetta all'entrata del Kodesh HaKodashim e mi accompagna dentro al Kodesh HaKodashim e poi mi riaccompagna fuori e mi lascia andare. Quest'anno ho trovato un uomo vestito di scuro che mi ha accompagnato dentro e mi ha riportato fuori, ma ancora non mi ha lasciato. Dopo Sukkot, dopo 7 giorni Sukkot, Shimon HaTzadik viene a mancare. E questo è fino al momento in cui viene data la Berakà con il tetagramma. Due o tre cose veloci sulla Birkat Kohanim. Viene chiamata in tre modi. Birkat Kohanim per motivi ovvi, perché viene data dai Kohanim. Il secondo modo in cui viene chiamata la Birkat Kohanim è Nesiat Kappaim, perché le mani vengono messe sulla le mani vengono alzate, e in questa spiegazione è molto interessante una cosa, chiamiamola cabalistica, che sulle mani dei Kohanim c'è proprio la Berakà all'interno, diciamo, della struttura delle mani. E se noi prendiamo le varie falangi delle dita più il palmo della mano, abbiamo Yerecha, Hashem, Elohecha, Yer, Panav, Veishmerecha, Veishmerecha, Yer, no Elohecha, Veishmerecha, Yer, Hashem, Hashem, Panav, Elecha, Bikuneka, Issa, Hashem, Panav, Elecha, Veyasem, Lecha, Shalom. Quindi quando mettiamo la mano... 15 parole. Sì, 15 sì. Parole. Quindi nella mano dei Kohanim c'è tutta la Berakà. Il terzo modo in cui viene data la Birkat, il terzo modo in cui viene chiamata la Birkat Kohanim è Aliyah Ladukan, perché il Kohen in qualche modo, come abbiamo visto prima, stava sui gradini, sulla piattaforma che stava davanti al Kodesh. Non a caso anche oggi i Kohanim si mettono sulle scale o comunque davanti alle Kal per dare la Birkat Kohanim. Non è una regola obbligatoria, però è un uso che venga fatto così. Come devono dare la Birkat Kohanim i Kohanim dentro il Beit HaMikdash? Con la loro toga vestita da Kohanim, stando in piedi, con le mani alzate, pronunciando il tetagramma, faccia a faccia con Am Israel e a voce alta. Concludo dicendo che da queste cose ho imparato due cose importanti che faccio durante la Birkat Kohanim ai giorni nostri dentro il Tempio. La prima cosa, c'è una strana usanza romana che si dà le spalle al Kohen quando dà la Berakà. Non bisogna dare le spalle al Kohen quando si dà la Berakà, ma bisogna come dire, avere il volto rivolto verso il Kohen, magari non guardarlo negli occhi, ma verso il basso, bisogna accogliere la Berakà. La seconda cosa, la Birkat Kohanim non va data con tutte e due le mani sulla testa del proprio figlio. Perché? Perché Kadosh Baruch Hu ordina al Kohen di dare in questo modo la Berakà, e solamente al Kohen di dare in questo modo la Berakà. Allora, se noi ci comportassimo come un Kohen, staremmo facendo una verà. Ecco perché è bene dare la Berakà con una sola mano sulla testa del Kohen. Questo l'ho imparato da Rav Colombo, del figlio. Questo l'ho imparato. Come? Due mani. L'importante è che sulla testa ci sia una mano. Questo l'ho imparato dalla Colombo in una lezione che ha fatto. Allora speriamo di sentire presto di nuovo la Berakha del Kohen Gadol con il tetagramma dentro il Betel. Amen, amen. Allora, cari amici, prima che Fabio mi ruba il mestiere, devo vi faccio solo qualche brevissimo cenno. Come ho detto prima, innanzitutto mi fa molto piacere che Fabio ha scelto di parlare della Birkat Kohanim, perché l'unica avodà, l'unico servizio effettuato dai Kohanim, che era stato effettuato all'interno del Beit HaMikdash, che ancora è effettuato oggi, è la Birkat Kohanim. Cioè i Kohanim fanno la mitzvah di dare la Berakha, che fanno a Roma o in qualsiasi altra parte, è la stessa esatta mitzvah che facevano all'interno del Beit HaMikdash. È una avodà dei Kohanim, è un culto, un servizio dei Kohanim, per questo si lavano le mani, si tolgono le scarpe, come lavoravano nel Beit HaMikdash, scalzi, eccetera. Quindi questa è una cosa che ancora abbiamo del Beit HaMikdash proprio. Come dicevo, nella conclusione proprio della Masechet non c'è la spiegazione della Gemara, però, come sapete, molti di voi partecipate alle lezioni del Kollel Torah che teniamo qui, e chi non partecipa è benvenuto a partecipare. Abbiamo studiato tante volte che la Gemara è come una sorta di rete dove noi possiamo trovare collegamenti. Oggi abbiamo l'esempio facile da come funziona sulla rete elettronica dell'internet, eccetera. Una volta era più difficile immaginare per chi non studiava Gemara. Chi studiava Gemara già sapeva come Google funzionava già da prima. Ci sono tanti intrecci, collegamenti, link che si possono fare anche dove sono magari meno aspettate certi approfondimenti o certi legami, invece li troviamo. Allora, in realtà, questa Mishnah che abbiamo studiato qui ha un approfondimento di Gemara, ma non nel trattato di Tamid, in un altro trattato, che siamo anche fortunati che esiste già questo trattato in italiano nella nuova edizione, è il trattato di Rosh Hashanah. Nel trattato di Rosh Hashanah, verso la fine, si cita una baraita, e voi sapete che una baraita è una fonte di Tanaim, cioè di maestri della Mishnah, ma che non entra nella Mishnah stessa, perché viene proprio dalla parola bar, che significa esterno. È una fonte esterna alla Mishnah, ma sempre una fonte di Tanaim molto autorevole. La baraita allarga un po' il discorso fatto nella nostra Mishnah, in quanto non solamente cita quali sono i salmi del giorno che corrispondono a quelli che abbiamo visto nella Mishnah, ma dà anche una motivazione perché proprio questo salmo in questo giorno. La Baraita dice, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Akiva, uno dei maestri insegnò, Rabbi Yehuda, a nome di Rabbi Akiva, e qui dà tutta la lista. Cioè, per quale motivo si recitava il Salmo 24, come dicevamo prima, nel primo giorno della creazione? E dà la motivazione al Shem Shekanave Hiknave Shalit Baolamo, che Kadosh Baruch Hu acquistò, cioè prese possesso del mondo creandolo, e lo vendette, cioè diede possesso all'uomo, e in quel giorno egli divenne il governatore del suo mondo. Ecco perché il Salmo 24, che noi recitiamo in quel giorno di domenica, rappresenta questa idea qui. E così va avanti spiegando tutti gli altri salmi del giorno, come abbiamo anche un po' accennato prima quando abbiamo concluso la Mishnah. Alla fine, quando parla del salmo dello Shabbat, la Gemara nel Rosh Hashanah cita questa baraita e dice Beyom be Shabbat ayom bashviya yomrim, settimo giorno dello Shabbat si diceva Mismor shir yom Shabbat, le yom shekulo Shabbat, per il giorno che sarà tutto Shabbat. Già c'è una variazione con quello che abbiamo visto nella nostra Mishnah. La nostra Mishnah è stata più ha allungato di più. Ha detto Mismor shir li yom shabbat, Mismor shir le atid lavo, le yom shekulo shabbat u benucha le chaye olamim. Ha detto una frase molto più lunga. Qui nella Baraita troviamo che Rabbi Akiva dice solamente Mismor shir li yom shabbat, Mismor shir le yom shekulo shabbat, il giorno che sarà tutto shabbat, cioè di nuovo riferendosi all'epoca del Mashiach. Però in questa Baraita non si conclude con questo. C'è una discussione. Qualcuno discute con Rabbi Akiva. Rabbi Nechemia disse. Rabbi Nechemia dice: Ma ra'u chachamim lechalek ben haperakim alalu. Per quale motivo, secondo lei, Rabbi Akiva, i maestri hanno voluto distinguere e fare una differenza tra i primi sei salmi e l'ultimo, il settimo. Qual è la differenza? In quanto i primi sei sono riferiti a ciò che è già avvenuto nella creazione e avviene nella nostra realtà, mentre secondo appunto Rabbi Akiva, il ultimo salmo non si riferisce al sabato originale, cioè a Shabbat, che HaKadosh Baruch Hu ha cessato la creazione e ha introdotto il concetto di menucha, di riposo, bensì si riferisce a una cosa futura. Perché i primi salmi parlano del passato e l'ultimo del futuro? Si pone Rabbi Nehemiah questa domanda e la mette davanti a Rabbi Akiva. E Rabbi Nehemiah dice: io non sono d'accordo, non ha senso. Bashevi al Shem Sheshavat. È vero che il salmo del settimo giorno è stato Mismor Shir Yom HaShabbat, ma non è per un Yom Shekullo Shabbat, non è per un futuro giorno che sarà tutto Shabbat, bensì è riferito anche alla creazione. Sheshavat, che HaKadosh Baruch Hu accessò la sua opera creativa in quel momento. Così conclude la Baraita. Cioè c'è una discussione tra Rabbi Akiva e Rabbi Nehemiah su questo significato del Salmo dello Shabbat. Se è rivolto al futuro, dice Rabbi Akiva, o se è rivolto al passato, come dice Rabbi Nehemiah. La Gemara commenta questa Baraita. Cioè i maestri della Gemara, gli Amoraim, i maestri più tardi dell'epoca del Talmud, e dicono, in realtà Rabbi Akiva e Rabbi Nehemiah, il senso della loro discussione può essere legato ad un'altra discussione che avvenne tra i maestri della Gemara. Qual è la discussione? Dice, loro discutono per ciò che disse Rav Ketina. Cosa disse Rav Ketina? Rav Ketina disse, Shita alfei shene hava alma, il mondo esiste per 6.000 anni. E poi Vechad Haruv, e il settimo millennio è un millennio di distruzione. Come è scritto, Vayomahu, in quel giorno solamente il Signore verrà esaltato. Ci sono varie spiegazioni di cosa significa, però il senso semplice, diciamo, che vogliamo dire qui, è che sarà distrutto tutto l'ordine che conosciamo ora, e in quel giorno sarà Venisgava Shem Levado, solo il Signore sarà esaltato in quel giorno. L'era messianica, che sarà visibile la presenza della Kadosh Baruch Hu, come leggiamo spesso nei profeti, specialmente negli Yeshayahu, eccetera. Questa è l'idea di Rav Ketina. Abaye, un altro maestro della Gemara molto importante, dice, no, non è Chad Haruv, non è un millennio di distruzione, bensì due, Shita al-Feshnei Abraham e tre Haruv, due epoche di distruzione, Shenemar, Yechayenu Miyamayim. Fa riferimento a un pasuk del profeta Oshea che dice ci farà vivere dopo due giorni. Cioè due giorni, cosa vuol dire un giorno? Sappiamo che il giorno di HaKadosh Baruch Hu nel Teilim è considerato come 1000 anni. Allora il millennio corrisponde al giorno quando parliamo dei giorni di HaKadosh Baruch Hu. E quindi lui dice no, sono due giorni. Ok, cosa c'entra con quello che ha detto Rabbi Nehemiah e Rabbi Akiva? Perché Rabbi Nehemiah dice, come Abaye, che se il mondo sarà sospeso non per un giorno, ma per due giorni, allora è inutile dire Mismor Shir Li Yom HaShabbat. Yom è uno. Se ci riferiamo al futuro, bisognerebbe parlare di Yomaim, come ha detto il profeta, due giorni. Invece, se è solo un unico Yom, deve essere riferito al Yom HaShabbat originale della creazione, quello odierno, quello normale, diciamo così, che per noi è normale. Invece l'altro maestro, Rabbi Akiva, sarebbe dell'opinione che è solo un'epoca del Mashiach, quindi riferito come un giorno, e allora il Yom HaShabbat può essere anche riferito a quel giorno futuro. Allora, ho visto qui, in un discorso del Rebbe che faceva proprio il Siyum di Tamid, l'ha fatto diverse volte sul Tamid, e una delle volte ha detto, sembra che la nostra Mishnah, nel trattato di Tamid, vuole decidere l'alaha come Rabbi Akiva e non come Rabbi Nehemiah, perché non prende in considerazione la seconda opinione. Questo si chiama Stam Mishnah. Vi ricordate che abbiamo studiato? Stam Mishnah vuol dire una Mishnah che è anonima e che non prende in considerazione altre opinioni. normalmente, quasi sempre, la halakha segue lo Setam Mishnah, cioè la Mishnah che non riporta altre opinioni, così normalmente si fissa la halakha. Allora è come se la Mishnah dicesse, quando dice Mizmor Shir Le'atid Lavo, che il Salmo di Shabbat è legato al Mizmor Shir futuro, è come se dicesse la halakha non segue Rabbi Nechemia, la halakha segue Rabbi Akiva, che questo Salmo in realtà è riferito non solamente al passato, ma soprattutto al futuro. Allora citavo in questo discorso che Rebbe fece nel Rosh Chodesh di Av del 1989, disse, non è detto che si vuole escludere l'opinione di Rabbi Nechemia, può pure darsi che si può leggere la Mishnah in un'altra maniera. Come si può leggere la Mishnah? Dice così, si può leggere Be Shabbat Hayu Omerim, il giorno di Shabbat si diceva, i Levim cantavano, Mizmor Shir Le Yom HaShabbat. Dicevano il Mizmor Shir dello Shabbat. Oggi è Shabbat, si dice il Mizmor Shir dello Shabbat. Shabbat cos'è? La cessazione del lavoro, delle opere, della creazione, così come diceva Rabbi Akiva, riferito al passato. Bene, conclude qui. Poi la Mishnah aggiunge un'altra cosa. Siccome c'è sempre un'indicazione dei Chachamim che bisogna concludere in bene, magari anche con un augurio, ma almeno in bene, eccetera, allora la Mishnah aggiunge non solamente lo Shabbat della creazione, ma anche ci auguriamo che sia Mizmor Shir Le'atid Lavo. Non è una contraddizione, entrambe le cose possono esserci, che sia anche un canto per il giorno futuro, le Yom Shekulo Shabbat, un menucha lechaya olamim. Vuol dire la Mishnah riconosce sia la prima parte Mizmor Shir Yom Shabbat nel suo senso semplice, che la seconda parte nel suo senso più vasto e più midrashico, come una agadah, come un insegnamento non di halakha, ma di augurio e di approfondimento in questo senso, di drash, come una derasha, che sia anche per l'atid lavo, che sia anche per il futuro. Ora si usa normalmente, quando si conclude una massechet, cosa si fa quando si conclude, per esempio, tutta la lettura di tutta la Torah? La Simchat Torah? Sì, adesso balleremo, però, cosa si fa subito quando si conclude? Si rinizia Bereshit. La stessa cosa, si fa cenno a questa cosa, anche normalmente quando si fa un Sium. In che senso? Che si lega la fine della Masechet all'inizio della Masechet. Come dire, riniziamo subito, ma si cerca anche di trovare qualche legame che può esserci tra quello che è stata la conclusione e quello che è stato l'inizio. Allora, come ha detto Fabio prima, l'inizio della Masechet inizia con la Mishnah che indica ciò che avveniva prima ancora dell'inizio della funzione della giornata, cosa avveniva di notte. Non era vuoto la zona del Beit HaMikdash e del monte del Tempio di notte, la Mishnah ci insegna che c'era un concetto che si chiama Shemirat HaMikdash, che è una mitzvah. Shemirat HaMikdash vuol dire la sorveglianza del Mikdash. E i maestri tutti spiegano, commentatori, che non è per un discorso di sicurezza. Anche quando verrà il Mashiach ci sarà questa mitzvah, non era per terrorismo o per altri motivi. Era una sorveglianza di onore, guardia di onore, perché non è giusto che la casa, Beit Elokeinu, come diciamo nel Salmo di lunedì proprio di oggi, sia senza una presenza di una guardia d'onore. E allora la Mishnah dice, Bishlosham Komot, c'è tre punti in cui i Kohanim facevano la sorveglianza e 21 punti in cui i Levim facevano sorveglianza. Bene. Cosa c'entra con la fine del trattato in cui abbiamo detto i salmi del giorno, il salmo dello Shabbat? Allora, ho visto in un libro di un maestro italiano, molto famoso, Rabbi Shimshon Shabbatai, Yaakov Shimshon Shabbatai, aveva tre nomi, Yaakov Shimshon Shabbatai Senigallia, che era grande maestro ad Ancona e ha fatto tante opere di Torah, molto famoso per l'opera che si chiama Shabbat Shelmi, che è un commento al trattato di Shabbat, però ha fatto anche diverse opere. C'è un'opera, Matat Elohim, dove commenta anche il trattato di Tamid. E lui dice che il legame è semplice, visto che con cosa abbiamo concluso? Abbiamo concluso con il Mizmor Shir Le'atid Lavo, con l'augurio della venuta e il canto legato alla venuta del Mashiach. Cosa faremo? Riprenderemo tutta la avodah del Beit HaMikdash, che è descritto dall'inizio della Masechet con la Shemirah, e lui conclude in realtà più col canto, che ci sarà proprio una simcha, abbiamo detto si balla, no? Lui parla proprio di questo, del ballo, del canto, della simcha legata a questo, e che è legato in generale al servizio del Beit HaMikdash, che è il tema con cui apre la Masechet. Però c'è anche un legame più, diciamo, meno generale, più specifico. Questo l'ho trovato in un altro libro, che è un'opera di un chacham ungherese, dove c'è scritto, si chiama Olat Tamid, lui dice, la Masechet conclude con Shabbat, e inizia con Shemirat HaMikdash. Quando si fa Shabbat, come si chiama? Shemirat Shabbat. Osservare lo Shabbat è lo stesso termine che si usa per Shemirat HaMikdash, cioè sorvegliare il Beit HaMikdash. Allora dice, visto che i maestri dicono nella Masechet di Shabbat, nel Trattato di Shabbat, la pagina 118b, i maestri dicono, se il popolo di Israel Meshamerin, se il popolo di Israel nella sua interità, tutto Am Israel, facesse la Shemirah, cioè osservasse due Shabbatot, che il Chatan, così come è esattamente la regola, allora miyad henigalim. La Gemara dice, se tutto Am Israel facesse di seguito due Shabbatot, come è la loro regola, sarebbero redenti subito. Così dice la Gemara. E in realtà questa cosa è già allusa nella Torah stessa. Perché cosa c'è scritto sulla Torah? C'è scritto et shabbatotai tishmoru umiktashi tirau. Osservate le mie shabbatot et shabbatotai tishmoru umiktashi tirau e abbiate timore del mio mikdash. Dove si esprime il timore del mikdash? Il timore reverenziale della Shemirah, della guardia d'onore. Allora vediamo come queste due cose sono proprio molto legate. La Shemirah dello Shabbat e la Shemirah del Mikdash, e non solamente sono legate, ma la Shemirah dello Shabbat porta alla ricostruzione del Beit HaMikdash, dove possiamo di nuovo, se Dio vuole, fare la Shemirat HaMikdash. E qui aggiungo, e quindi quanto può essere importante e quanto è incredibile come si legano queste cose. Però aggiungo una cosa. Se oggi noi siamo qui, non abbiamo in questo minuto il Beit HaMikdash. Speriamo il prossimo minuto già avrà il Mashiach. Però in questo minuto, come facciamo questa mitzvah di Shmirat HaMikdash? C'è stata qualche opinione di qualche maestro che anche oggi dobbiamo sorvegliare il luogo in cui si trova il Beit HaMikdash, ma non è un'opinione accettata, non corrisponde all'Halakha. Quella mitzvah esiste solo quando c'è davvero il Beit HaMikdash. Però c'è comunque un aspetto di Shmirat HaMikdash che esiste oggi. E lo facciamo tutti, ma non sappiamo che si chiama Shmirat HaMikdash. A cosa mi riferisco? Quando noi usiamo il termine Lishmor, in questo contesto, il verbo di Shemirah, no? Lishmor, in questo contesto stiamo parlando di sorveglianza, guardia, ok? Oppure nel contesto dello Shabbat, osservare. E quindi sono sfumature dello stesso termine visto in diverse maniere. C'è anche un'altra sfumatura. C'è scritto che quando Yosef fece i suoi sogni da ragazzo, i fratelli si arrabbiarono e si ingelosirono di lui. E fece il primo sogno, poi quando fece il secondo sogno, suo padre gli disse, cosa gli disse suo padre? Vi ricordate? L'ha preso così, ha detto lascia stare, cosa pensi che vedremo, veniamo tutti noi a inchinarci a te? Ha voluto davanti ai fratelli sminuire il significato di quel sogno, esattamente. Però, come conclude questo versetto? Ve'aviv shamar et hadavar. Disse quelle parole per sminuire davanti ai fratelli, ma in cuor suo, ve'aviv e suo padre, shamar, stesso termine, custodì quella cosa. ma non vuol dire solamente custodì, vuol dire anche rimase in attesa, cioè seppe. Shamar vuol dire custodire. Custodire, cosa vuol dire custodire? Non per adesso, per dopo. E rimanere in attesa. Come? Ha riconosciuto il fondamento, sapeva che si sarebbe realizzato, non era il momento, però Shamar lo custodì per quando sarebbe stato il momento giusto. Allora quando noi diciamo Shamar et Adavar, ci sono delle cose a cui bisogna attendere, non perché vogliamo allungare, ci sono delle cose a cui che bisogna tenere sempre dentro di sé e che si sa che saranno realizzati. E che bisogna essere pronti che siano realizzati. Questa è la Shemirat HaMikdash in senso metaforico che noi facciamo adesso. Shemirat HaMikdash, siamo in attesa di che sia ricostruito il Beit HaMikdash. E tutto quello che noi facciamo è per il merito anche che sia ricostruito il Beit HaMikdash. Come abbiamo detto che la Gemara dice riguardo l'osservare lo Shabbat, ma anche il fatto di studiare non solamente qualsiasi aspetto della Torah, ma proprio quegli aspetti della Torah che parlano del funzionamento e delle funzioni e della quotidianità nel Beit HaMikdash, e anche per Shamar et Adavar, anche per questo custodire, questo essere in attesa, e non solamente in attesa così succederà, ma proprio con la volontà e il desiderio che questo si realizzi il prima possibile. Allora concludo con un augurio che sia questo veramente Be'ezrat Hashem, Be'mehera, Be'yamenu, presto nei nostri giorni, e visto che anche oggi si ricordano i soldati che sono caduti, e infatti il Limud è anche dedicato alla loro memoria, e quando verrà il Mashiach, allora ci rivedremo anche con loro e con tutti i nostri Kedoshim, sacri Yudim che hanno dato la vita al Kiddush Hashem, per santificare il nome di Hashem, e sicuramente torneranno a fare una Shemirah, ma questa volta non per pericolo, ma per onore ad HaKadosh Baruch Hu. Amen, Keni Razon. Azak.